24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:23 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 anche oggi per il nostro 24 mattino. Vi ricordo subito il tema del nostro sondaggio: parliamo di candidati politica e candidati cosiddetti impresentabili. Ieri ancora abbiamo sentito due arrestati, accuse di camorra in provincia di Napoli. Vi chiediamo, secondo voi, il controllo dei candidati a chi spetta? Ai partiti oppure alla magistratura? Votate su radio24.it, ne parleremo, come detto, alle 8:30. Da cosa iniziamo? Dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 4 maggio le aperture sono legate soprattutto ancora alla vicenda Bin Laden con il giallo delle foto. Le foto di Bin Laden spaventose, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Tutti i segreti di Bin Laden per Repubblica, Bin Laden foto raccapriccianti per La Stampa, Bin Laden i segreti nel computer per Il Messaggero. Su questo tema anche Il Manifesto, foto finish, e c'è uno sullo sfondo, una foto su di Bin Laden. L'apertura del Sole 24 Ore: l'OPA non è concordata, il board Parmalat, la vicenda Parmalat Lactalis, il board Parmalat affida a Goldman la valutazione dell'offerta, quindi l'apertura sul tema Lactalis Parmalat. In ogni caso vedremo altre aperture dei quotidiani, perché io voglio subito dire le due segnalazioni che mi hanno incuriosito dai giornali prima della pubblicità, e la prima la trovate su Repubblica, pagina 21, il paradosso dei forestali in Sicilia, 841 ufficiali e solo 14 agenti. È una vicenda che racconta Antonio Fraschilla da Palermo, sul corpo di polizia più pazzo d'Italia, dove tutti comandano ma non c'è nessuno che possa obbedire. È quello della forestale della regione siciliana, dove ci sono 841 ufficiali e sottufficiali, cioè commissari e ispettori, e 14 agenti. Un paradosso incredibile. Tutti hanno i gradi e le stellette, nessuno è soldato semplice. Risultato? Non solo in Sicilia non è rimasto più nessuno da comandare, ma ci sono più commissari e ispettori nel corpo forestale siciliano che in tutto il corpo forestale dello Stato italiano. E adesso da cosa è nato tutto questo? Beh, da quando nel 20 aprile 2007 si è consentito l'avvio di promozioni automatiche con la semplice anzianità di servizio, si è creata questa situazione paradossale. Come si può ovviare a tutto questo, a questo squilibrio? Beh, l'unico modo per la regione è fare nuove assunzioni per evitare la paralisi, perché altrimenti tutti comandano ma non c'è nessuno da comandare. Cosa serve? Assumere persone, perché almeno ci sono persone che possono essere comandate. Questo era su Repubblica, il paradosso dei forestali, Sicilia, 841 ufficiali e solo 14 agenti. La seconda segnalazione la trovo in prima pagina del Sole 24 Ore, riguarda il fisco. Operazione redditometro, lettere del fisco a chi spende oltre quanto dichiarato. Attenzione, un'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate: potrete ricevere nei prossimi mesi, cari italiani e cari contribuenti, una lettera che suona più o meno così: gentile contribuente, lei ha speso troppo rispetto a quanto guadagnato. Come mai? Dal fisco il preavviso di controllo. Antonio Criscione ne parla a pagina 33 del Sole 24 Ore. L'evasione fiscale è meglio prevenirla che combatterla dopo. Questo è il principio che ha spinto l'Agenzia delle Entrate a mandare con una forte azione di prevenzione queste comunicazioni che il Sole dice non saranno aggressive nella forma, ma proprio, come dire, abbiamo notato questa cosa, questo squilibrio tra quanto lei guadagna e quanto spende. Come mai? Potrebbe essere un modo, scrive il Sole, secondo l'Agenzia delle Entrate, anche di dissuadere qualcuno che magari, allarmato da questa situazione potenziale evasore fiscale, dice ci pensa due volte, perché vuol dire attenzione, qualcuno mi sta mettendo una pulce nell'orecchio, mi sta controllando. Questa la trovate sul Sole 24 Ore. Ci fermiamo per la pubblicità del meteo e poi ripartiamo da che cosa? Beh, il tema principale ancora, Osama Bin Laden sui giornali. In primo piano. Sui giornali ancora tante pagine dedicate all'uccisione di Osama Bin Laden, la cui uccisione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. annunciata dal presidente americano Obama. E allora, nuovi particolari intanto su quello che è il blitz. Per esempio, a pagina 2-3 del Corriere della Sera, Guido Limpio racconta né più nei dettagli. È stata più che altro la Casa Bianca a correggere un po' la prima versione del blitz. In tutto hanno partecipato, questa è la nuova versione degli americani, 79 uomini che sono entrati in questo compound di tre piani. I commandos hanno salito le scale, la battaglia, due corrieri di Bin Laden falciati al secondo piano, una donna muore nel tiro incrociato, poi i Navy Seals arrivano al terzo piano, il nascondiglio di Geronimo, così era in gergo chiamato Osama Bin Laden. Lunedì avevano raccontato che si era fatto scudo della moglie, ieri controordine, Osama non è armato ma si oppone ai cacciatori, la risposta arriva con due proiettili, il primo lo raggiunge sopra l'occhio sinistro devastando il cranio, il secondo centra il petto, la moglie cerca di aggredire un soldato ed è ferita una gamba, è ucciso invece Hamza, uno dei figli di Bin Laden, un'altra figlia del terrorista appena dodicenne è testimone della battaglia, per i pakistani ha visto tutto. Alla fine il messaggio arrivato alla Casa Bianca, Geronimo, E-K-I-A, che vuol dire Geronimo, enemy killed in action, nemico ucciso in azione. Questo è stato il messaggio finale e alla fine tutto questo è stato seguito in diretta e certo, se c'è il giallo, il tema dominante della foto di Osama Bin Laden morto dopo i tanti falsi che sono stati spacciati in giro, soprattutto grazie a internet, alla complicità della rete, se il grande tema è giusto o no mostrare ora il corpo, il tema sul quale si stanno interrogando molto gli Stati Uniti, la Casa Bianca, perché da un lato ci sono i dubbi di tutto il mondo a dire com'è possibile che non ci fate vedere neanche un'immagine, se dite che avete un'immagine, e l'America dice abbiamo le immagini di tutto quello che è successo. Il dilemma americano è proprio questo, mostrare quel corpo che, a detta della Casa Bianca, è un corpo devastato anche nel volto e dunque subire anche delle ritorsioni mediatiche di quello che vorrebbe dire mostrare un volto del genere, oppure se invece è il caso di non mostrarlo, però così continuare ad alimentare i dubbi. Su tutti i giornali quelle ultime foto di Osama sono atroci, incerti se diffonderle così su Repubblica. La stampa fa proprio un dibattito a pagina 5, è giusto non mostrare il corpo oppure va mostrato? Il giornale in prima pagina fa un fondo chiedendo esplicitamente mostrate quel corpo, basta foto false, vogliamo una foto, quella vera, di Osama Bin Laden morto, perché quella che vedete pubblicata, e ce n'è un'altra che campeggia a prima pagina, è un altro falso come quello che ha fatto il giro del pianeta lunedì non appena uscita la notizia dell'uccisione del capo di Al-Qaeda. Certo, là, se ci si interroga su questa foto, se pubblicarla oppure no, un'altra foto ha già fatto il giro del mondo, la trovate su tutte le prime pagine dei giornali, il Corriere la mette in prima pagina, altri quotidiani la mettono all'interno, la Stampa la mette in prima pagina totalmente in apertura sotto la foto, sotto il titolo Bin Laden foto raccapriccianti. Questa foto invece che cosa ritrae? Ritrae Barack Obama, Hillary Clinton e tutto lo staff del Consiglio per la Sicurezza Nazionale sono riuniti alla Casa Bianca, sono i volti, sono molto tirati, i volti tesi, Hillary Clinton ha una mano sul volto proprio a dimostrazione di una tensione, stanno seguendo in presa diretta in TV il blitz, le immagini che fanno paura, qualcuno ha le braccia conserte, ma davvero ci sono anche dei primi piani sul volto tiratissimo del presidente americano che segue teso quello che sono i fotogrammi che forse non mostreranno al mondo o forse mostreranno al mondo, ma che loro stanno guardando in questo momento in diretta, è il blitz raccontato attraverso i volti di Barack Obama, di Hillary Clinton e dei loro collaboratori più stretti. Questo è il tema dunque che più sviluppato è questo, mostrare o no il volto, come altri temi sono le collaborazioni, i rapporti con il Pakistan, il fatto che sia stato trovato un PC sequestrato dagli soldati americani che dovrebbe essere davvero una fonte inesauribile ora di informazioni, e anche interviste, ne segnalo due, o meglio una è un racconto e un'altra è un'intervista, protagonista la stessa persona, Robert Fisk, che è un giornalista britannico il quale per tre volte è riuscito a intervistare Osama Bin Laden, fa un lungo articolo sull'Independent che l'Unità traduce e ripropone a pagina 16 e 17, Osama è stato tradito e quel giorno mi disse ho paura dei talebani. E lo stesso Robert Fisk viene intervistato da Repubblica, a pagina 13, da Enrico Franceschini da Londra. Robert Fisk racconta un po' il suo rapporto con Osama Bin Laden, anche i suoi giorni con lo sceicco, quando quella volta tentò di arruolarmi. Io però gli risposi: guardi sceicco, io sono e non sono e non diventerò mai un musulmano, sono un giornalista e il lavoro di un giornalista è raccontare la verità. Lui mi guardava con uno sguardo da falco, stette zitto un po' e poi mi disse: Mr. Robert, se lei dice la verità vuol dire che è un buon musulmano. Certo, capii che il mio eventuale arruolamento avrebbe dato un duro colpo in positivo, in senso d'immagine, cioè un giornalista occidentale che si converte e si unisce alla lotta di Al-Qaeda avrebbe dato un colpo eccezionale d'immagine ai terroristi. Riguardo a Bin Laden, dice: era colto, aveva delle lacune enormi, gli ho sentito dire delle incredibili sciocchezze, non sapeva neanche cosa fosse la guerra civile americana, per esempio. Poi era seriamente convinto che finanziando le guerre l'America sarebbe andata in bancarotta. Aveva una difettosa concezione della realtà. Diceva che siccome aveva sconfitto l'armata rossa sovietica, a parte che non aveva sconfitto i russi da soli, così avrebbe sconfitto anche l'America. L'America era un'altra cosa, gli dicevo io, ma non voleva sentire ragioni. E poi com'era vivergli vicino? Una volta chiese a suo figlio: ma sei felice? Lui rispose sì, ma dopo anni ha scritto un'autobiografia intitolata Living with Osama Bin Laden e si è corretto. Se Robert Fisk mi avesse posto la stessa domanda ora, avrei risposto no, non sono felice. Vabbè, il racconto di Robert Fisk, il suo racconto del rapporto con Osama Bin Laden. L'altro tema internazionale, certo, sul tavolo per quel che riguarda la politica italiana, scenario internazionale ma con ripercussioni sulla politica italiana molto nette, è la questione della Libia. Allora, la famosa quadra, per usare un termine caro ai leghisti e Umberto Bossi, pare sia stata trovata all'interno della maggioranza. PDL Lega, data certa per fine missione, così è il titolo del Sole 24 Ore, a pagina 11, il resoconto politico di Barbara Fiammeri. Si sono incontrati, si sono anche telefonati e si sono parlati per un minuto, non di più, Bossi e Berlusconi, dopo giorni e giorni di silenzio. È stata trovata un'intesa per presentare un'unica mozione tra PDL e Lega sulla situazione libica. La Padania esulta con il titolo di prima pagina: passa la linea della Lega. In realtà c'è stato insomma un tentativo di smussare da una parte e dall'altra. Il punto che più fa discutere di questa mozione è che in questa mozione si chiedono due cose: no a nuove tasse, non è questo il punto che fa più discutere, ma il punto che fa più discutere è questo: una data certa per la fine dei bombardamenti. La NATO ha già fatto sapere, come racconta sempre il Sole nell'articolo di spalla, che non si può dare un tempo, una deadline precisa. La NATO dice: durerà questa azione il tempo necessario. E su questo tema effettivamente ci sono anche le critiche, per esempio sull'Unità, la prima pagina, è proprio questa l'ironia: guerra a tempo, per tenersi Bossi il premier inventa la missione con data di scadenza. Oggi comunque ci sarà il voto sulle missioni, ci sono anche molti retroscena della politica, perché su questo tema, il niente tasse e data per il ritiro, in realtà pare che ci siano un po' dei malumori all'interno del centrodestra. Come racconta Libero a pagina 5, il governo in guerra, la pace nella maggioranza costa, il PDL in ansia, sarà un salasso. Pare che Silvio Berlusconi abbia confessato di prendere parte a questa missione dolorosa, impopolare, perché il 72% degli italiani ne è contrario. E che cosa costerà, secondo Libero, secondo il retroscenista Salvatore Dama, questo accordo tra PDL e Lega? Beh, la lista delle richieste della Lega sono un paio di sottosegretari, il direttore del TG2, e si fa il nome di Gianluigi Paragone, il vice sindaco di Milano, dovrebbe essere Matteo Salvini, spostare la Consob oppure un ministero al nord. Troppa roba, secondo il Popolo della Libertà. Secondo il giornale, addirittura un ministro vicino a Berlusconi avrebbe definito questa proposta, di questa mozione della Lega, sembra scritta da Rifondazione Comunista. Secondo Libero invece c'è stato lo sfogo del ministro La Russa con il leghista Tosi, sindaco di Verona. Non possiamo apparire così divisi, porca puttana, abbiamo una perdita d'immagine. Questo avrebbe detto La Russa a Tosi. Insomma, c'è l'accordo, c'è la mozione unica, però sotto traccia ci sono anche, secondo i quotidiani, i mal di pancia degli scaiolani, insomma quelli di Scaiola, no? Che controllerebbe una serie di parlamentari che dicono ma come, cioè la Lega sembra che si stia allargando un po' troppo. C'è Berlusconi, secondo il giornale, questi sono i retroscena più interessanti, che addirittura avrebbe detto temo ora l'estremismo islamico che possa colpire i miei figli. E poi sul raid che ha colpito, ucciso il figlio di Gheddafi e 3 suoi nipotini, Berlusconi avrebbe detto se l'hanno voluto assassinare è un fatto gravissimo perché l'omicidio non rientra negli obiettivi della missione alleata. Insomma, bisogna capire qual era l'intento del Blitz. Insomma, quadra trovata, ma con qualche tensione e qualche problema. Tra l'altro, di questo parleremo alle 8:20 nell'intervista. Abbiamo ospite il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, anche il terzo polo, il cosiddetto terzo polo, ha una sua missione. Parliamo di attualità politica. Sarà ospite Casini alle 8:20 nell'intervista. Ora ci fermiamo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Per chiudere la pagina politica vi segnalo anche un'intervista di quelle scoppiettanti che solo il ministro Brunetta sa fare quando parla, e sapete che quando parla non le manda certo a dire. La sinistra fa schifo, noi superiori in tutto. Questo è il titolo dell'intervista a Libero. Per la verità lui dice la sinistra mi fa leggermente schifo, non proprio schifo schifo, leggermente schifo. Sa come chiamo io la sinistra, dice Brunetta, camaleonti, transfughi, paguri. Proprio come quegli animaletti che non avendo casa propria si infilano in quella degli altri, sotto la sabbia o nelle conchiglie. Non sono più comunisti, non sono liberali, non sono mai diventati socialdemocratici, sono naufraghi del potere. Vogliono il potere ma non riescono a ottenerlo per via democratica, le elezioni non le vincono mai, non hanno più alcuna base sociale di riferimento, alcuna ricetta di politica economica, difendono i fannulloni della pubblica amministrazione, i baroni dell'università, le rendite parassitarie del public utilities, una sinistra fuori dal mondo che mi fa leggermente schifo. Così Renato Brunetta su Libero. Allora, come detto, la prima pagina del Sole 24 Ore, i temi economici, apre sull'OPA la vicenda Parmalat-Lactalis con Enrico Bondi, vale a dire l'amministratore di Parmalat, che ha chiamato Goldman Sachs al suo fianco nella battaglia su Parmalat, perché il consiglio di amministrazione ieri della Parmalat ha definito non sollecitata, non concordata l'OPA di Lactalis e ora spetterà alla banca d'affari americana stabilire se il prezzo offerto dai francesi, 2,6 euro, è adeguato, anche se i francesi non hanno alcuna intenzione di rivedere al rialzo la loro offerta. Tutti i dettagli sono a pagina 3 del Sole, c'è anche questa frase, l'operazione non concordata deciderà l'advisor, ma fa notare il Sole che Berlusconi, il premier Berlusconi ha detto l'offerta francese, ha ribadito ciò che già aveva detto con Sarkozy al fianco, è in regola con il mercato. Certo, questo è uno dei temi economici che Oscar Giannino tratterà alle 9, quando, lo ricordiamo, avremo ospite il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Sicuramente si parlerà di che cosa? Anche di un altro tema che ora viene già approfondito. Ieri è stato anticipato dal Sole 24 Ore, ora ci sono sempre più dettagli perché domani dovrebbe, mi risulta domani, il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il decreto sviluppo. E, beh, ecco che cosa si profila come novità. Il Sole mette in prima pagina il credito d'imposta che torna per le assunzioni al sud. Il credito d'imposta torna per le aziende che assumono nel mezzogiorno. Questo dovrebbe essere, questo bonus sarà inserito nel decreto sviluppo varato, che verrà varato, ecco appunto la conferma, domani nel Consiglio dei Ministri. Davide Colombo e Marco Mobili a pagina 7 ne parlano con tutti i dettagli. E la novità più importante è questo, il bonus per chi assume al sud. Il rilancio dell'assunzione del mezzogiorno passerà dunque per la reintroduzione di questo credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro che assumeranno con contratto a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o particolarmente svantaggiati. Poi ci sarà anche, oltre al bonus assunzioni, un credito d'imposta alla ricerca e allo sviluppo potenziato rispetto all'ultima ipotesi formulata con la legge di stabilità. fisco semplificato, come ha annunciato il ministro Brunetta un paio di giorni fa, che dovrebbe essere sgravi per 10-12 miliardi di euro in tema di semplificazioni per le aziende. E il Corriere della Sera aggiunge invece anche un'altra cosa: dovrebbe entrare in questo decreto il piano per la scuola, con un'assunzione di colpo di 65.000 precari. Questa è una notizia importante, la trovate a pagina 34 del Corriere della Sera. Decisione non ancora presa, ma potrebbe entrare in questo decreto sviluppo di domani. 65.000 precari tra insegnanti, bidelli e segretari. A differenza di quanto previsto fino a pochi giorni fa, non dovrebbe essere spalmato su 3 anni, ma potrebbe scattare in un sol colpo a settembre, con l'inizio delle nuove lezioni dell'anno scolastico. Questa potrebbe essere la novità più importante del decreto sviluppo del Consiglio dei Ministri di domani. Staremo a vedere. Per la cronaca, trovate le dichiarazioni rilanciate di Giovanni Brusca, detto Uverru, il porco, colui che schiacciò il pulsante a Capaci, strage Falcone, colui che uccise e fece sciogliere nell'acido il figlio di un pentito, colui che si è macchiato di vari delitti. A Berlusconi dissi intesa o bombe, ha parlato, questo lo leggo il titolo, il racconto di Nino Amadore sul Sole 24 Ore, ma poi il Corriere: Brusca, la trattativa ci fu, stragi, il premier non c'entra. Brusca in sostanza ha detto: il premier Berlusconi, l'attuale premier Berlusconi, non c'entra niente con le stragi, ma certo lo contattammo attraverso chi? Attraverso Vittorio Mangano, lo stagliere di Arcore, per cercare di arrivare all'uomo che sarebbe diventato premier, attraverso Dell'Utri e Mangano. E parla anche della trattativa, la famosa, famigerata, se c'è stata trattativa mafia-Stato, facendo il nome del referente a cui sarebbe stato consegnato il papello, cioè non consegnato, consegnato il papello, ma per farlo arrivare a chi? All'allora ministro dell'interno Nicola Mancino. Non è la prima volta che il nome viene fatto, ma certo si rinfocolano le polemiche. C'è anche moltissimo sui giornali del tema del nostro sondaggio, prende spunto da Napoli, in cella due candidati bufera sul PDL, questo su Repubblica, due candidati a Quarto, provincia di Napoli, accusati di collusioni con la Camorra. E poi l'abbiamo sentito anche nel GR, un intero comune in Calabria per legami con l'Andrangheta, presunti ovviamente, da dimostrare, ma insomma molto, molto probabili, è stato praticamente sciolto. C'è anche un'intervista su Avvenire al procuratore Nicola Gratteri, che dice: è più la politica ormai, col sistema elettorale, che cerca la mafia. Per i candidati è assolutamente necessario rivolgersi alla cosca, sapendo che poi la conduzione dell'amministrazione del comune, nella più favorevole delle ipotesi, sarà una gestione comune tra politica e mafia, e nella peggiore il capo cosca detta le regole e l'agenda politica del comune. Ne parliamo alle 8.30. A chi spetta il controllo sui candidati cosiddetti impresentabili, secondo voi, ai partiti oppure alla politica? Chiudo in 10 secondi. Pagina 30 della Stampa: usi Facebook in ufficio, sei colpevole di peculato. 5 dipendenti comunali in provincia di Forlì, nel paese di Bertinoro, accusati di questo reato per aver usato Facebook in ufficio. State attenti. Il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21 minuti. Per la nostra intervista di oggi voglio salutare il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Senta, PDL e Lega hanno trovato dunque l'accordo su questa mozione della guerra in Libia. Qualcuno ironizza, si vuole una data certa, una guerra a tempo. Tutto risolto all'interno della maggioranza? Lei, ma guardi, è una gran buffonata. È una cosa triste che la politica estera italiana sia ridotta in questo modo, perché c'era già una mozione, era già stata votata dal Parlamento, non c'era bisogno più di fare niente. Hanno pasticciato, mettono in una mozione cose che da un lato sono ridicoli, ad esempio entro la tal data, cosa che è evidentemente impossibile, peraltro è un grande favore a Gheddafi, perché nel momento in cui capisce il tiranno libico che qui c'è gente che non vede l'ora di scappare via, è chiaro che le sue resistenze aumenteranno e il tentativo della comunità occidentale di mandarlo in esilio avrà più difficoltà ad essere realizzato. Ma poi inserire in questo documento ad esempio il tema del reato di immigrazione clandestina, che come si era previsto da molti, compreso noi, abbastanza facilmente la comunità europea, l'Unione Europea ha respinto per la semplice ragione che era scritto e pensato in modo del tutto difforme da quelli che sono i trattati internazionali. Bene, tutto questo determina un grande pastiglio. Senta, ma... la Lega si è fatta sulle spalle dei nostri militari la campagna elettorale e questo è profondamente immorale. Ecco, anticipato la domanda, lei che non è mai tenero con la Lega, secondo lei c'è una strategia, una lettura di quello che è successo negli ultimi giorni, il gelo poi finito tra Berlusconi e Bossi? Ma la strategia è quello di farsi la campagna elettorale, il che è profondamente immorale perché abbiamo dei soldati in giro per le missioni di pace per il mondo che rischiano la vita e degli uomini impegnati anche nelle operazioni in Libia, per cui la finalità è né più né meno questa. Peraltro se Berlusconi, come sostengono i leghisti e io in questo caso non ho motivo di dubitarne, ha fatto cose così scorrette nei loro confronti, beh allora su una vicenda di questo tipo un partito serio fa la crisi di governo, non fa una muina che serve solo a... diciamo così, prepararsi con più efficacia la campagna elettorale. Senta, a proposito di amministrative, ieri Berlusconi ha parlato di alleanze PD e UDC, il suo partito, come un'alleanze contro natura. Ha detto sarà un'armata Brancaleone che verrà riproposta alle elezioni nazionali da Vendola a Fini con guida Casini. Vabbè, sciocchezze da campagna elettorale che evidentemente gli servono a sperare di prendere dei voti, ma sa, io ho deciso da tempo che alle sciocchezze di Berlusconi non gli sto dietro, perché sennò tutti i giorni bisognerebbe essere lì a smentire tutto e il contrario di tutto, perché poi lui dice tutto e il contrario di tutto. Noi in alcune realtà abbiamo privilegiato le persone giuste e abbiamo scelto gli uomini del PDL, in altre abbiamo fatto l'inverso, nella maggioranza di casi andiamo da soli. Berlusconi è come Biancaneve, come Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè si è svegliato tardi, che non ci sia più l'alleanza tra PDL e UDC, ormai è già 5 anni. Ma un'idea che Casini possa, che lei possa guidare in qualche modo, ecco, quella Berlusconi la definisce un'armata Brancaleone, lei può definire o il terzo polo, comunque candidarsi a Palazzo Chigi un domani. Ma questo è un altro ragionamento, certamente io non aspiro a guidare un'armata Brancaleone e non lo farò. Senta, il terzo polo, qualcuno nel colloquio che il presidente della Camera Fini ha fatto ieri all'Unità dicendo quando ci saranno le prossime elezioni lì si vedrà con Futuro e Libertà il mio nome nel simbolo, ci misureremo, uno smarcamento da questo terzo polo, ma questo terzo polo c'è oppure no? No, io condivido pienamente le cose che ha detto Fini, non le vedo per nulla in contrasto col terzo polo. Ricordo che in questi giorni sia Futuro e Libertà che l'Unione di Centro hanno nel nome del loro simbolo, diciamo, alla Camera dei Deputati messo per il terzo polo, per cui proprio francamente credo che sia una tempesta in un bicchiere d'acqua. È ovvio che Futuro e Libertà è una forza giovane e si misurerà alle elezioni politiche. Il terzo polo in periferia parte dalle 4 città grandi, perché poi le elezioni amministrative hanno delle logiche loro, non è che puoi fare un terzo polo imponendolo in Italia dal primo all'ultimo comune, tra l'altro non saremmo in contraddizione con noi stessi, perché noi non siamo come la Lega che fa le alleanze sul territorio tutte egemoni o lì da Bossi, o come il PDL che le fa ad Arcore e da Berlusconi. Noi lasciamo autonomia ai nostri aderenti in periferia, devono scegliere i sindaci migliori, non possono riproporre schemi nazionali. Noi facciamo il terzo polo a Milano con Manfredi Palmeri, con Pasquino a Napoli, con Aldrovandi a Bologna e con Musi a Torino. Secondo me avremo dei buoni risultati. Presidente, ancora 2 domande. La prima, lei in una recente intervista ha detto mi auguro che scendano in campo e che si vada al voto, e scendano in campo personalità come Montezemolo o Marcegaglia. Le chiedo questo anche perché Emma Marcegaglia, il presidente di Confindustria, sarà ospite di Oscar Giannino alle 9, dunque la ascolta in questo momento. Che vuol dire? Che voleva dire? Che stima stimola Montezemolo, che stimola no, ma scendere in campo, che vuol dire? Persone come queste servirebbero alla politica. Dopodiché, poiché non sono una persona abituata a tirare per la giacca nessuno, rispetto le scelte che decideranno di fare, ma il giorno mai che ci fossero in politica persone del genere non sarebbe un giorno negativo, sarebbe un giorno assai positivo per la politica, perché bisogna colmare la distanza che c'è tra la gente e gli uomini politici. L'ultima domanda: Berlusconi al Quirinale come ipotesi, come la vede? Sì, io vado a farlo il barco sulla luna. La ringrazio, buona giornata, Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, per essere stato con noi nell'intervista. Allora, noi ci fermiamo, la pubblicità e il meteo, e poi parliamo, rimaniamo a parlare di politica, rapporto, politica, magistratura. Ieri sono stati arrestati, accuse di essere affiliati alla Camorra, due candidati a Quarto, in provincia di Napoli. In Calabria hanno smantellato parte di un comune per legami con l'Andrangheta. E insomma, il tema è questo: chi deve controllare, il tema del nostro sondaggio, chi deve controllare i rapporti sui candidati cosiddetti impresentabili? Secondo voi è un controllo che spetta ai partiti oppure è un controllo che dovrebbe spettare alla magistratura? È un tema annoso, dibattuto, ne parleremo, è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it dopo la pubblicità, se volete intervenire 800 24 0024. 24 mattino. Alle 8:34 minuti parliamo di candidati cosiddetti impresentabili alle elezioni, perché ci sono dei casi di cronaca da cui prendiamo spunto, avvenuti ieri e oggi trovate su tutti i giornali, per chiedervi: ma a chi secondo voi ascoltatori dovrebbe spettare il controllo sui candidati da presentare? Ai partiti, come logica vorrebbe, oppure vorreste un controllo da parte della magistratura, da parte della legge, per quel che riguarda ovviamente il codice penale, la fedina penale di chi si presenta? È la domanda che vi poniamo oggi. Io sono o blanco o nero, gris lo voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E devo dire che per il 66% dei nostri ascoltatori il controllo spetta ai partiti. Ieri arrestati in una retata contro la Camorra a Napoli, tra gli altri anche due candidati per il Popolo della Libertà al Consiglio Comunale di Quarto in provincia di Napoli. E poi in Calabria è una inchiesta che ha sgominato una cosca dei Mazzaferro, e abbiamo sentito anche il procuratore capo Pignatone nel nostro GR, insomma anche il sindaco di Gioiosa Ionica, che appena eletto secondo l'inchiesta era andato dal capo Bastone a felicitarsi per l'elezione a capo del comune di Gioiosa Ionica. Il procuratore antimafia Gratteri, in un'intervista ad Avvenire, dice: ormai sono i politici, è la politica, e conviene a loro, ai politici, andare dalla mafia, non il contrario. Ne vogliamo parlare intanto con due giornalisti, Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano, buongiorno Gianni. Buongiorno. Così come saluto Gianluigi Nuzzi di Libero, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Però voglio partire, lo ringrazio, dal procuratore capo di Napoli, Giovan Domenico Lepore. Procuratore, buongiorno. Buongiorno. Senta, questa vicenda allora è una vicenda, lei come la definisce? È d'accordo col procuratore Gratteri che dice è alla politica che conviene ormai bussare alla porta alla mafia? Beh, è una cosa un po' generale, io non la prenderei così alla larga. Ci sono dei casi in cui effettivamente la politica si può servire di alcuni per particolari capi clan per avere dei voti, ma è un vantaggio reciproco e non è così generalizzato. Indubbiamente ci sono questi casi che si sono verificati, ma anche per pura coincidenza contemporaneamente, sia in Calabria che in Campania, ma è un problema di carattere generale. Naturalmente la legge c'è, ma riguarda soprattutto, ed è questo d'altra parte un principio che deve essere osservato, il rispetto delle norme costituzionali, cioè in effetti non possono essere candidati le persone che hanno dei precedenti penali, determinati precedenti, quindi con precedenti nel senso di sentenze di condanna definitiva, quindi tre gradi di giudizio. Altrimenti noi verremmo ad abbattere il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. E questo è un primo ostacolo non indifferente, procuratore, ma cioè, esatto, secondo lei ci vorrebbe... È un ostacolo che avviene dopo l'elezione, perché in genere oggi, quando si fanno i controlli, oggi si basta l'autocertificazione, poi successivamente verranno fatti i controlli, ma i controlli vengono fatti molto dopo anche all'elezione eventualmente. Sì, sì, quando ormai al limite si può far decadere qualcuno se lo si pesca allora con le mani. Diventa una cosa molto, molto complicata. Uno non legittimato verrebbe a fare attività politica, sì, nell'amministrazione per 1 o 2 anni fino a quando non arriva una decisione definitiva. Però qui si pone la domanda di fondo dalla quale vorrei partire con Barbacetto e Nuzzi. Barbacetto, allora cosa vuol dire? Perché qualcuno ci ha scritto addirittura in un sms, ma perché non studiamo una cosa che secondo me è aberrante, però la propongo come tema, perché non studiamo dei bollini giallo, verde, rosso, da attaccare ai manifesti elettorali? Cioè verde vuol dire tutto a posto, giallo forse indagato, magari anche condannato in primo grado, rosso proprio no, questo c'ha una condanna in appello e attenzione perché potrebbe essere, cioè, vogliamo questo sistema, Barbacetto? Ma io credo che i partiti abbiano tutte le capacità, le possibilità di autoselezionare la propria classe dirigente. Il problema è che non lo fanno, è proprio questo il problema, anzi c'è una selezione al contrario, vengono selezionati spesso, in molte situazioni, i peggiori. Perché? Perché i peggiori sono quelli che hanno più possibilità di fare, ma non so, accordi per esempio con cosche mafiose, oppure accordi con imprenditori, accordi di tipo truffaldino, di tipo illegale, e di portare voti. E quindi sono forti dentro il partito e vengono privilegiati dentro le loro strutture. Ma siamo sicuri che i partiti lo sanno sempre? E non c'è nessuna regola che lo può garantire, perché io credo, quando si parla dell'autonomia della politica, no? Il fatto che la magistratura non dovrebbe fare ingerenze dentro la vita politica, è vero, se i partiti fossero capaci di autoselezionare la classe dirigente, la loro classe dirigente, dovrebbero essere molto rigorosi, molto più rigorosi delle condanne, perché non basta... un tema di etica dei partiti, no, però, questione di rapporti, di contiguità, sì, cose che i partiti sanno benissimo sul territorio. Ecco, però era questa la controdomanda, sanno benissimo, perché se io porto al partito Pinco Pallino tot voti, io come faccio, capo del partito lì, a sapere benissimo che tu questi voti li controlli perché sei affiliato alla camorra? È questa. Ma sì, dunque è come quando si dice che non si conosce il nome del boss mafioso locale. In realtà il boss mafioso locale lo conoscono tutti e la sua forza è proprio data dal fatto che tutti lo conoscono, lo temono e lo rispettano, e non ha più bisogno neppure di usare le armi in quel caso, perché è rispettato e temuto senza neanche bisogno di usare la violenza. Ecco, io credo che succeda la stessa cosa dentro i partiti. Si sa benissimo che ci sono assessori, ma dico, sì, non parliamo, sì, poi parliamo del nord anche, perché se ci fermiamo al sud stiamo freschi. Quando Gratteri dice che a Milano ci sono almeno 13 politici che hanno ricevuto voti dell''ndrangheta a Milano, sì, sì, io credo che siano di più di 13, però insomma lui dice ce ne sono almeno 13. Ecco, questi qua, alcuni di questi sono nelle liste per il Consiglio Comunale di Milano. Ecco, gente con i nomi dentro le inchieste di mafia fatte dalla Procura di Milano, sì, insieme alla Procura di Reggio Calabria, che sono lì. Quindi per infiltrazione di noi stiamo preparando un servizio, uscirà domani proprio sul Fatto Quotidiano, in cui faremo in questi nomi. Vabbè, allora, ci sono candidati al Comune di Milano in vari partiti che hanno dei problemi, stanno nelle liste, nelle inchieste, che hanno però stare pericolosi con uomini della stare nelle inchieste vuol dire, Gianluigi Nuzzi, che vuol dire finire in un'inchiesta? Perché uno dice vabbè, ma allora che facciamo, demandiamo alla magistratura ai documenti delle procure, uno finisce in un'inchiesta, poi magari viene assolto tra 10 anni o 10 anni o 15 anni o 20 anni, e intanto lo blocchiamo? È questa un'obiezione che si può fare? No, io credo che ci sia la convergenza di due fenomeni diversi. Da una parte la politica non avverte come prioritaria il manifestare il recepire e manifestare un'esigenza di legalità che c'è da parte di settori della popolazione, no? Quindi non è prioritario delegare le prefetture a fare un giro di vite o istituire rendere più fitta la maglia della rete che poi porta alle candidature. E quindi i controlli vengono fatti, come dice il procuratore di Napoli, post e non ante sulle candidature. Dall'altra parte credo che questa mancanza di sensibilità sia da una parte dovuta proprio a un fatto di disattenzione, di scarsa recezione di quello che invece è un valore fondamentale. Dall'altro credo che ci sia una sorta di armistizio tra Stato e antistato, nel senso che è impensabile che le organizzazioni mafiose non dialogano con settori dello Stato, visti anche i fatturati che producono. E quindi è chiaro che poi si creano dei corridoi, magari più a livello amministrativo, ma anche a livello politico, sì, cioè sul territorio, ma anche a Roma, l'hanno visto diverse indagini, per trovare dei loro rappresentanti a tempo pieno, non part time come lo sono. Ma l'idea Nuzzi, che la magistratura in qualche modo possa ipoteticamente... La magistratura non deve fare nulla, dare un bollino. La magistratura deve fare le indagini, arrestare e fare il suo lavoro. E qui stiamo parlando di un pezzo, e sottolineo solo un pezzo, del grande fantasma che è la politica, perché la politica dal 92 ad oggi non si è autoimmunizzata rispetto a certi fenomeni, punto primo. Punto secondo, non ha recepito quello che è accaduto, ha fatto finta di non essersene accorta, sì, perché con una magistratura cioè si preferisce continuare a vivere in questa zona grigia e sperare piuttosto che fare chiarezza. Io questo voglio sentire ormai delegittima completamente la politica le manifestazioni abbiamo con il non voto e con ci voto. Sono, no, tra l'altro per molti la soluzione, ci scrivono, è Beppe Grillo, quelle che prevede col suo Movimento 5 Stelle. Io voglio sentire Simona da Roma, che ci ha chiamato all'800 24 00 24, prima del traffico. Simona, buongiorno. Sono in macchina, sto per entrare all'università, vi volevo dire che vi ascolto tutte le mattine con molto piacere. Senta, io sono d'accordo sul fatto che il controllo lo debbano fare i partiti, però volevo sapere quali possono essere gli strumenti per fare questi controlli senza comunque accadere nella violazione della privacy, ha capito? Sì. Perché poi non basta... Sempre che uno voglia farli poi i controlli, però dici... Ci sono la volontà deve essere questa, certo, quelli di farli. Alcuni prevedono i codici di autoregolamentazione, cioè un partito dice, caro candidato, hai qualche indagine in corso? Sì, no, diccelo, cioè, perché poi dopo noi valutiamo, però... C'è per esempio la necessità di presentare un certificato penale, per esempio per fare il bidello serve, per fare il vigile per la strada serve, perché per fare il candidato è previsto questo, io mi chiedo. Non credo per legge, cioè non, nel senso non è un obbligo, ma credo che i partiti possano darsi un codice per autoregolamentare così. Però guardi, è una domanda interessante, dopo il traffico le faccio rispondere sia dal punto di vista della legge, cosa prevede, dal procuratore capo di Napoli e dai nostri giornalisti che sono con noi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, procuratore Lepore, ha sentito la domanda di Simona da Roma, che ci dice i partiti sono obbligati. Come ci dica un po'. Ecco, allora, io sono perfettamente d'accordo con quello che hanno detto i due giornalisti. È vero, quando si dice la magistratura interviene, invade la sfera politica, eccetera, ma purtroppo siamo costretti molte volte proprio perché i partiti non rispettano quelle norme etiche, per cui automaticamente capita, come è capitato qua a Napoli, come è capitato in Calabria, di dover incontrare appunto in queste retate, cosa che in effetti noi già sapevamo prima, che naturalmente era gente che era legata a dei partiti e che si candidava, era legata a delle cosche e che si candidava nelle elezioni. È un fatto, purtroppo, non si può col certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, perché qui si corre un altro rischio, soprattutto se diciamo che non possono partecipare alle elezioni gente che ha dei precedenti penali, cioè soltanto non sentenze di condanna definitiva, ma soltanto dei precedenti. si possono fare dei correttivi, per esempio chi nei confronti dei quali, persone nei confronti delle quali è stato emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Sì, perché se io sono indagato per un reato, ecco, cioè che vuol dire? Ma cioè, mica... semplici indagati non si può assolutamente, perché altrimenti si rimetterebbe poi alla magistratura di decidere chi deve partecipare all'elezione. Sì, sì. No, ma certo, mi arriva un avviso di garanzia un mese prima delle elezioni, io mi devo devo farmi da parte, poi magari va tutto in niente e intanto. Ma questo non per iniziativa della magistratura, perché basta una semplice denuncia che automaticamente scatta tutto il meccanismo. Sì. In effetti è un problema di carattere etico, politico, e non si dica che il candidato che presenta, il partito che presenta una lista non sappia nulla. Sanno tutto, procuratore. Sanno tutto, sia perché nei piccoli centri si sa tutto, vita, morte e miracolo di ognuno. Ma nei grandi centri anche, e per presentare una persona, non è che uno si presenta, buongiorno, mi voglio candidare, è chiaro che lo sa benissimo, e quindi allora è una questione esclusivamente etica da parte dei partiti. Mi faccio sentire il procuratore Massimo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica Massimo. Salve, io sono un maresciallo, sì. E come tutti i pubblici impiego c'è già una legge che vieta, se non c'è la fedina penale pulita, di candidarsi. Come ci diceva l'ascoltatrice, chi deve fare il bidello? Non delegherei né ai partiti né alla magistratura, estenderei la legge che già esiste ai parlamentari, e se qualcuno fa il truffaldino parlamentari, oppure si scopre che non ha la fedina penale pulita, parlamentari o anche amministrative, quindi anche i consiglieri comunali eccetera. Tutti. Per fare il bidello, per fare il sottufficiale o per fare... Ma lei ribadisce questa cosa. Allora, questa regola vale per loro. Gianni Barbacetto, questa regola che già due ascoltatori ci dicono è di buon senso, cioè la legge che lo prevede, perché non vale per la politica? Sì, io sento anche una musica di sottofondo. La musica Radio 24 è bellissima. Mi impedisce di sentire bene, però... Vabbè. No, dicevo... ma dovremmo essere però più esigenti. Allora, a me basta che uno sia, diciamo, che abbia la fedina penale pulita per fare il bidello, ma per fare il mio rappresentante in un'assemblea elettiva io avrei, scusatemi, ma avrei delle pretese maggiori. Io vorrei non solo che fosse pulito, ma che fosse al di sopra di ogni sospetto, e che poi che fosse capace, cioè io vorrei scegliere i migliori da mandare nelle assemblee elettive, sia nei comuni, nelle province, nelle regioni, in Parlamento. E invece qui c'è una selezione al contrario, e io credo che non si possa accontentarsi della fedina penale pulita, per cui anche le regole, diciamo quelle oggettive che possono valere per tutti, sono insufficienti. Ci deve essere davvero un'autonomia della politica e una capacità dei partiti di selezionare, perché appunto, dicevamo prima, sanno benissimo cosa succede nel territorio ai loro uomini, perché altrimenti se ci affidiamo soltanto a regole automatiche tipo fedina penale, ma le condanne arrivano anni dopo i fatti, e quindi ma che vuol dire allora anche lei, perché voi domani pubblicate sul Fatto alcuni che sono, mi pare di capire, indagati o comunque nomi, cioè anche un'indagine, allora ma se poi quell'indagine finisce in fatti, cioè io sono per l'uso non giudiziario anche delle carte giudiziarie, cioè non contano le sentenze, per la politica non dovrebbero contare tanto le sentenze, certo le sentenze contano alla fine, ma quella è l'ultima ratio. C'è anche un'indagine, un fatto di... Anche fatti non giudiziari, cioè se una persona ha rapporti con un uomo della criminalità organizzata e diciamo... dal punto di vista penale non c'è niente di male, perché magari non lo sapeva, magari è andato ad una cena elettorale con un boss mafioso. Non va bene, dovrebbe... Cosa che è successa a Milano. Allora, questo qui, i casi sono due. O lo sapeva, e allora io non lo vorrei in un'assemblea elettiva. O non lo sapeva. Oppure non lo sapeva, e allora ancora di più non lo vorrei in un'assemblea elettiva. Capito, perché è un cretino che si fa abbindolare da un boss mafioso e va ad una cena elettorale magari pagata però, dal boss mafioso. Però vorrei chiedere Gianluigi Nuzzi, questa non è una china pericolosa, quella di dire se è andato a una cena, cioè uno in un, certo noi vorremmo tutti specchiati i candidati. È una china non solo pericolosa, ma che colpirebbe per primo Antonio Di Pietro, che si è fatto fotografare con un boss dell''Ndrangheta fuori da un ristorante alle porte di Milano anni fa, e lo stesso già era indagato, e quindi Di Pietro, ex magistrato stesso, ha posato in una fotografia e è andato a una cena dove c'erano diversi 'ndranghetisti, che poi uno è stato anche ammazzato, e lui ovviamente Di Pietro nulla sapeva dell'identità di queste persone, però a questo punto non dovrebbe essere sedersi in Parlamento. Io credo che il sistema proposto dal collega Barbacetto sia assolutamente non solo pericoloso, ma pericoloso anche, decapiterebbe una intera classe politica. Capisco il suo malanimo, perché in effetti non se ne può più, e questo è assolutamente condivisibile. Attenzione però, perché il sistema è questo: il sistema dell'indulgenza, cioè come c'è la raccomandazione, non più tardi di gennaio, il dottor Lepore potrebbe confermarlo, sì, perché credo che la Procura di Napoli abbia aperto un'inchiesta, il vecchio boss della Camorra, Raffaele Cutolo, ha caldeggiato un suo nipote affinché lo stesso si presentasse a un importante politico napoletano, sì, il presidente di un'assemblea elettiva napoletana, e gli ha detto: manda tuo fratello a mio nome. Ma l'ha caldeggiato. Perché quello ha lavorato con me anni fa. Vabbè, ma io su questo però devo chiudere, perché il tempo è finito. So, la domanda rimane in sospesa al procuratore Capolepore, che ringrazio comunque. Torneremo su questo tema interessante, vedremo domani cosa pubblica il Fatto, come ci ha detto Gianni Barbacetto. Ringrazio anche Gianluigi Nuzzi di Libero. E allora, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia, grazie. Noi ci troviamo domattina, ricordo, dando la linea a Oscar Giannino, che oggi c'è ospite il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e noi ci troviamo domattina. Potete scriverci 24 mattino@radio24.it. State con noi, con Oscar Giannino. A domani.